Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Caro Oscar! Carissimo Alessandro! Ci siamo! Ma io devo dire, Alessandro, innanzitutto salutiamo gli ascoltatori, tu l'hai già fatto prima, però prima io ti ho ascoltato attentamente, sì. Mi aspettavo una frase in cinese, visto che chi ha comprato il Milan non l'hai fatta, ma hai dei dubbi evidentemente. Fatta Milan! Ah, ecco, non ha dei dubbi, no. Comunque, so. Cari ascoltatori, in queste settimane poche di sospensione o troppe, secondo me non bisognerebbe sospenderli per in sensi d'estate, ma detto questo, hai visto, l'Italia, terremoto, terribile. Crescita zero, e insomma tante notizie un po' così. Sì. Non è che ci sia questo radioso avvenire da commentare, però non esageriamo. Però vabbè, soprattutto il terremoto ne parleremo. Ah, tra l'altro, caro Oscar, altra notizia, andremo avanti fino alle 9.30 questo mese di settembre. Tutto il mese? Tutto il mese. Lo stai comunicando tu in diretta, vabbè, ma si scopre solo vivendo. No, non lo so, ma penso tutto il mese. Intanto, per i santi del giorno, io rassicuro tutti, 5 settembre si onora la santificata proprio ieri, cioè Santa Teresa di Calcutta. Tu oggi l'hai ricordata, certo. Secondo me meglio con il pezzo di Tiziano Terzani proposto quella della sera, mi ha molto colpito. C'è anche una vicenda che riguarda l'ex sindaco di Roma. È così, io ho la sua sensibilità. Oggi il messaggero, ricordando Santa Teresa di Calcutta, ricorda l'ex sindaco Francesco Rutelli, dice: noi gli diamo la cittadinanza onoraria, e mi trafisse il suo commento, perché Santa Teresa di Calcutta disse: ah, quindi adesso mi chiede l'ICI. Ecco, era chiara anche alla però, santa. Secondo me Rutelli, la situazione delle tasse avrebbe dovuto riavere la stessa sagacia di rispondere prontamente. Dico: ma no madre, come sa la chiesa non paga l'ICI, ecco, forse quindi avrebbe dovuto, avremmo aggiunto paradosso a paradosso. Paradosso risolto, sembrava che quella fosse una delle grandi emergenze, recuperare a Roma il pagamento di centinaia e centinaia di immobili dove l'IMU poi ha abolito prima casa, però insomma non lo pagano anche se loro impresa commerciale, poi si è persa per strada. Ma vedremo col nuovo sindaco di cui parleremo tra poco. Allora, in questo 5 settembre ti dico solo che nel 1923 un governo non proprio un governo di quelli poco discussi, perché nel 1923 il governo Mussolini stanziò in Consiglio dei Ministri 500 milioni per ricostruire Messina e Reggio Calabria, che erano state azzerate dal terremoto del 1908. Come vedi, la storia italiana purtroppo si ripete. E nel 1981 invece, solo nell'81, cari maschi italiani in ascolto, veniva levata dalla legislazione italiana la possibilità di riparare a uno stupro con il matrimonio riparatore, perché faceva venire meno le conseguenze penali dello stupro. Fino all'81 l'Italia aveva leggi così. Il matrimonio riparatore, che aberrazione. Pensa, per chi stuprava, se la vittima era consenziente e a quel punto c'era il matrimonio, non c'era più, era un motivo di estinzione del procedimento penale. Chiaro. 1981. Sì, sì, sì, no, non 1400. Comunque. 1981. E poi Oscar, vabbè, del terremoto parleremo dopo le 9, perché certamente la notizia che a un certo punto in qualche modo ha annullato tutte le altre notizie dell'estate che c'erano fino a quel momento, parliamo adesso un po' di Roma. Ma che sta succedendo a Roma? Che sta succedendo a Roma? Sta succedendo qualcosa che fa felici tanti, non credo che faccia felici molto i romani, perché fa felice anche un po' il governo, diciamolo pure, che spera di raddrizzare così il fatto che era arrivato fino a 2 settimane fa, diciamo, c'era un cambio in corso evidente del Presidente del Consiglio nel tono, è passata la voglia di dire che le riforme risolvono tutto, la crescita è tornata a zero, si temeva il risultato del referendum, e adesso tutti sperano nel fatto che i 5 Stelle si stiano, per così dire, incartando da soli in maniera molto grave sul grande palcoscenico nazionale. Ce la fanno a governare Roma, ce la fanno a non perdere pezzi, eccetera. Ma anche perché il tema di governare Roma è un banco di prova per dire: sono in grado di governare anche tout court, per le prossime elezioni. Sono in grado di avere classe dirigente che sia in grado di dire: Renzi, fatti da parte. Esatto. Oggi ci sono, interviste. Virginia Raggi fa un'intervista Al Corriere della Sera dice: siamo uniti, ho il sostegno di Beppe Grillo, ripartiamo. L'assessore Muraro, che è indagata, si scopre tra l'altro da mesi. Dice: sono i poteri forti che ci attaccano. E che mette compatti. In discussione il fatto che fino a questo momento indagato fuori serie l'assessore. Esatto, invece il sindaco dice: voglio vedere le carte. Però certo, dice il Corriere, le regole sono semplici del movimento, se ha fatto qualcosa di sbagliato prenderemo i provvedimenti, il che vuol dire a casa. Mi ha molto colpito l'impostazione che c'è da parte di molti, credo, che seguono anche il Movimento 5 Stelle, che dicono, sai cosa dicono, Oscar? Beh, ma sì, saremo un po' pasticcioni, saremo magari incapaci di, in questo momento non abbiamo mai governato, però non siamo ladri. Allora, meglio incapaci che ladri, questa è il grande, la grande domanda che mi è venuta a dire, ma insomma, sarà meglio così dunque, meglio essere pasticcioni, certo, i peggiori sono incapaci e ladri. Quella è la categoria, diciamo. Ne abbiamo visti tanti, poi a me colpisce che naturalmente poi in queste settimane stiamo automaticamente dimenticando di quali spoliazioni e responsabilità trasversali di destra e sinistra è vittima Roma, e per questo sta in queste condizioni protratte per decenni. Ma detto tutto questo, questo non allevia le responsabilità di chi chiamato alla prova perché ha vinto un mandato importante, fa vedere, diciamo, non proprio il massimo convergenza. Non il massimo. Usiamo un eufemismo. Tra l'altro, auguri a questo neo assessore De Dominicis, che è un programma un po' vasto. C'è un nuovo assessore al bilancio, De Dominicis, ex procuratore, che dice: ora caccerò quelli che non lavorano. Io quando l'ho letto sul Fatto Quotidiano mi sembra un po' un proclama di quelli. Ma come si fa a cacciare un dipendente pubblico che non lavora? No, ma dove lo troviamo? Comunque, sì, ma anche di dirigenti. Io intanto ai nostri ascoltatori dico che il mio personale osservatore sulle nuove leggi e il decreto delegato Madia, quello presentato come in 48 ore licenziamo quelli beccati a fare i furbi all'ingresso con i cartellini, fino a questo momento non risulta che uno solo dei casi da che è in vigore accertati o sospetti dalle procure e comunque dipendenti pubblici che sono stati beccati a farlo, fino a questo momento nessuno ha avuto il licenziamento da 48 ore. Vedremo, per il momento la riforma forse sarà arrugginita, però intanto questa lo sai, no? L'abbiamo presentata, la grande svolta entro 48 ore, fino a questo momento nessuno. Allora, dobbiamo dare il numero di telefono per gli ascoltatori, è sempre il solito, 800 24 00 24. Parliamo sicuramente di Roma, cerchiamo di capire se questo inizio così arrugginito della giunta Movimento 5 Stelle può portare addirittura a un crollo, a una fine, sarebbe una cosa clamorosa, di questa stessa giunta, oppure no. Parliamo della situazione politica e poi parleremo anche del terremoto, ma insomma, come sapete, le vostre telefonate su tutto quello che volete. Vogliamo sentire quello che ha detto Di Maio, caro Oscar, Di Maio sull'idea sempre dei poteri forti. Io abbandonerei questa idea che ci sono complotti, retroscena e sotterfugi. Qui gli unici che ci vogliono fare la pelle sono quelli che si sono magnati Roma negli ultimi 15 anni e adesso stanno provando a farci cadere in tutti i modi, ma non ci riusciranno. Non ci riusciranno, vabbè, questo è il proclama del vicepresidente della Camera. Chissà se ha ragione oppure no, ecco, questo poi. Questo erano i fatti. Certo è che dovevano anche aspettarsi, per così dire, quelli della prima fila di 5 Stelle, che i giornali facessero il loro mestiere. Quindi tutto il filone dell'interpretazione, se quello che sta succedendo sia anche espressione in qualche modo di una lotta per la primazia politica, per il futuro del Movimento 5 Stelle. Di Maio viene inquadrato come colui al quale facevano riferimento all'inizio l'ex assessore Minen, poi scaricato, cioè che scrive: ah, ma adesso è Di Battista che sta crescendo mentre fa il tour per l'Italia, due ruote contro il referendum, contro di Maio, Faide uno contro l'altro e così via. E naturalmente anche questo era da mettere in conto, cioè che i critici spieghino in tutti i modi possibili questa crisi romana come una devastante concentrazione dei fattori che rendono non credibile il Movimento 5 Stelle a livello nazionale. Poiché penso che loro sapessero sin dall'inizio che Roma sarebbe stato preso come questo banco di prova, adesso vediamo quali saranno le loro risposte concrete. Anche perché pare che Virginia Raggi ieri abbia chiamato tutti gli assessori a dire: stiamo uniti. Tra l'altro, visto che abbiamo citato il nuovo assessore al bilancio De Dominicis, quello che dice al Fatto Quotidiano: cacciamo chi non lavora, lo stesso ex magistrato contabile, lo stesso De Dominicis, sai che ha detto a Repubblica: le Olimpiadi Io sono favorevole. Io sono favorevole. Se me lo chiedono sono favorevole. Ecco già la prima altra piccola grana. È un vecchio keynesiano, come sa chi lo conosce. Quindi non mi stupisce. È già un altro piccolo problema, nel senso. È mica favorevole. Tanto piccolo, perché su questo c'è una pressione lì davvero di poteri forti. Allora, scusa, posso fare questo esempio? Cari ascoltatori, pensiamoci un secondo. Ieri Repubblica ci ha spiegato che il Gran Premio di Monza, Formula 1, sì. Ecco, io rispetto i monzesi, viva la tradizione della Formula 1, viva la Ferrari, quello che volete voi. Però noi adesso ce lo siamo aggiudicato perché Ecclestone, che gestisce il circo, aveva dei dubbi sul Gran Premio di Monza, ce lo siamo riaggiudicati per 3 anni e sono circa 70 milioni di euro da pagare, e per questo non aboliremo più il PRA, il doppione della motorizzazione civile, che dai tempi di Bersani, Monti, anche Renzi, tutti avevano detto lo aboliamo, è un doppione che paghiamo noi con i nostri soldi automobili. Non lo aboliamo il PRA perché con i suoi soldi bisogna pagare il Gran Premio per 3 anni. Però tu mi insegni che non l'avremmo abolito comunque, per una cosa che nasce in Italia non viene abolita comunque. Ma hai capito che dobbiamo tenere in piedi il PRA per pagare il Gran Premio di Formula 1? E vogliono pure fare le Olimpiadi, cioè dicendo che non paga pantalone, dai, ma cioè facciamo è una roba per le Olimpiadi, facciamo il super PRA. Vabbè, comunque Roma meglio ladri che meglio incapaci che ladri, questo è un po' lo slogan, ma comunque il vostro parere all'800240024. Ne parliamo anche con Antonio Padellaro, già direttore del Fatto Quotidiano. Buongiorno Padellaro, eccoci qua. Buongiorno a tutti. Oggi Virginia Raggi dice: ho il sostegno di Grillo, in un'intervista al Corriere, mi ha mandato un sms anche se non ne rivela il contenuto, siamo uniti, andiamo avanti, è tutto a posto. Ma in realtà che succede a Roma? Succede quello che abbiamo visto, c'è una situazione da un certo punto di vista molto imbarazzante per il Movimento 5 Stelle. Non si può negare che le dimissioni a catena, quello che emerge dal sottobosco del movimento, le lotte un po' intestine, niente di tragico, per carità, non facciamo diventare così fatto così incredibile quello che in fondo fa parte della vita dei partiti, ma certo il Movimento 5 Stelle, quando ancora deve ingranare la prima, no? A Roma, dove ci sono i problemi che sappiamo, finisca sui giornali per settimane per queste questioni, non depone assolutamente bene. No, è un brutto inizio, come minimo tempo, un brutto inizio. C'è tutto il tempo per recuperare, come si dice sempre, quando comincia il campionato e si perdono le prime 3 partite. Però bisogna recuperare. Io non conosco questo nuovo assessore al bilancio De Dominici, ha una carriera di magistrato della Corte dei Conti dignitosa. Vedo che però già comincia a parlare. Per carità. E anche sul Fatto, ma questa cosa che ha detto cacciamo chi non lavora, ti pare possibile? Sì, no, perché qui Oscar Giannino giustamente ha detto: ma quando mai si caccia un dipendente impossibile pubblico? Cacciare allora... Sappiamo perfettamente che si tratta di affermazioni molto belle dal punto di vista oratorio, ma che insomma. Però insomma, veniamo al punto. Il punto è che il Movimento 5 Stelle a Roma deve risolvere un problema fondamentale, cioè il problema che bisogna, nel senso migliore della parola, sporcarsi le mani quando si amministra. Non dico che bisogna rubare il contrario, bisogna però non affidare e delegare ai vari manager presi dalla Banca d'Italia Minenna o dalla Corte dei Conti, bisogna assumersi in prima persona le responsabilità, perché la Raggi è stata eletta a Roma sulla base di ciò. Allora, se si, come è stato fatto in prima battuta, si affida la gestione, il governo della città, la parte più importante, la polpa, le municipalizzate, guardate, lo sapete meglio di me, si tratta di affari enormi, ad altri che non rispondono politicamente al sindaco, si crea una giunta nella giunta, ed è quello che è successo fino a qualche giorno fa. Cioè c'era una giunta di manager, esperti, eccetera, che non rispondeva evidentemente al sindaco, ma rispondeva ad altri criteri. Ho capito, ma chi li ha scelti? Questo è il tema. Sono stati messi lì? Sì, no, ma li hanno scelti loro perché c'è un problema quasi edipico del Movimento 5 Stelle con il denaro. Cioè, questi qui, non, siccome appunto voi avete intitolato meglio i netti che ladri, il loro problema è quello di apparire onesti fino alla centesima prova. Ora, il denaro è, spesso appunto perché amministra una grande città, tra l'altro è un debito di 16 miliardi di euro, è un elemento fondamentale della società ma anche della politica. Se loro pensano di affidare la gestione ad altri, questi altri, come nel caso di Vinenna, dai, il punto è questo, che questi personaggi non rispondevano direttamente al sindaco. Adesso stanno scegliendo altri nomi, la Raggi dice io sono il sindaco finalmente, sì, e vediamo che succede. Insomma, che riprenda un po', Oscar, ci sta dicendo Antonio Padellaro che Virginia Raggi si sporchi un po' le mani, riprenda proprio in mano i dossier. Ma l'altro punto è che il motivo per cui la sindacatura Raggi è nata con questo crisma di non dover e non poter avere in mano lei le leve è anche, ha anche dei risvolti interni. Cioè, a differenza dell'Appendino a Torino, dove è evidente che c'è una scelta fin dall'inizio sul tipo di personaggio, la sua esperienza, eccetera, e decide lei, consultandosi con la base, ma decide lei. A Roma è evidente che il direttorio, le diverse anime, i diversi esponenti politici nazionali, eccetera, eccetera, fin dall'inizio pensavano è più influenzabile e la vogliamo così, perché deve essere una decisione collettiva. Di qua il fatto che alcuni hanno indicato Minenna, che come dice giustamente Padellaro aveva in mano la gestione, è un'idea sua di come fare l'amministratore unico per tutte le maggiori società partecipate di Roma. Adesso il problema è se davvero la fanno scegliere la sindaca oppure esatto. No, a cominciare dai suoi compagni di partito e dirigenti nazionali. No, ma è chiaro, perché direttori, vari direttori, controlli, e questo è un po' il problema. Ci chiama Tiziana proprio da Roma, buongiorno Tiziana. Buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Io volevo dire solo proprio brevemente, cioè il decreto Madia sul licenziamento nel caso di mancata timbratura bla bla è applicato. Guardate, io lavoro nella pubblica amministrazione e in alcune agenzie che abbiamo sul territorio, gradirei non dire la pubblica amministrazione presso la quale lavoro, sono stati licenziati. Cioè sono a in casa 48 ore? No, ma questo però mi fa piacere avere questo riscontro, però fino a questo momento pubblicamente non risulta, grazie. 48 ore sono indicative, perché uno le 48 ore significa nel momento che hai il dato certo. Sì. Quando c'è la certezza del dolo, le 48 ore sono vere. E mi creda, c'è gente che è senza... Giustamente, assolutissimamente giustamente, è a casa da giugno, la prova è il comune di Acireale, sono in 30 a casa da giugno e uno è un mio conoscente che non percepisce lo stipendio dagli inizi di giugno. Ora, di questo nessuno deve godere, però la legge Madia viene applicata e le assicuro che... No, grazie perché il comune di Acireale interessato anche nella riservatezza, ma però grazie perché almeno una legge c'è e viene applicata. No, poi ci ha dato anche viene applicata e ogni volta che viene applicata a me viene mal di pancia perché mi chiedo come si fanno a fare certe cose, ma grazie al cielo viene applicata. Ben applicata. Vabbè, Tiziana ci ha dato anche una notizia indicandoci anche il comune di Acireale, esatto. Evidentemente indagheremo. C'è anche Claudia che ci chiama da Roma. Buongiorno Claudia. Claudia c'è? Chissà. Salve, buongiorno. Buongiorno, dica. E io volevo soltanto fare una nota. Noi veniamo da una giunta che è quella Marino, che ha cambiato 4 giunte in 4 anni, facendo delle dimissioni. Quindi il fatto che nella partenza un sindaco abituati. Nuovo... Penso non è che siamo abituati, diciamo che non c'è niente di nuovo sotto il sole. Poi le polemiche dei giornali, voi dovete prendere i giornali di Roma... togliere una serie di giornali che sappiamo tutti e giustamente che sono contro questa giunta a prescindere, già li accusano di cose che manco hanno cominciato a fare, quindi togliamo quelli e il resto rimane una polemica, sì, quello si è dimesso, le polemiche interne del Movimento 5 Stelle, ma chi se ne frega, ma speriamo che lavorino oggettivamente. No, ma su questo chi se ne frega devo dire che, grazie Claudia, su questo chi se ne frega, poi Padellaro è la questione che interessa ai romani e poi se la città si rimette in moto o no, cioè se puliscono le strade, se... Noi tra poco avremo l'ex amministratore dell'ATA, che è Rettighieri, che è uno di quelli che se n'è andato. No. Sì, dunque, allora, sui giornali è vero che c'è una spinta da parte dei giornali che vogliono le Olimpiadi a Roma, tanto per fare, esatto. Per non fare. Sono tanti, sono giornali importanti, perché Repubblica si è espressa in questo senso, sì. Il Messaggero, eccetera, che ovviamente non fanno sconti, come si dice, alla Giunta. Però la Giunta, Raggi, deve abituarsi a questo, esatto. È inutile continuare a parlare di complotti, esatto. Lasciamo stare, come diceva l'ascoltatrice, si mettono a lavorare e cominciano a risolvere i problemi. Però, tornando un attimo indietro, visto che le Olimpiadi sono il problema centrale, la domanda è proprio questa: se la Giunta Raggi per ipotesi avesse detto sì, facciamo le Olimpiadi e vive vive, a parte secondo me che non sarebbe stata eletta con questa percentuale, perché a Roma la maggior parte dei cittadini non è favorevole alle Olimpiadi, ma a parte questo, è evidente che avrebbe avuto una pressione minore da parte dei cosiddetti poteri forti. A proposito, adesso ascolterete Retighieri, ascolteremo Retighieri. Retighieri ha detto una cosa importante l'altro giorno sui giornali, ha detto che il problema, lo scontro con la Giunta e con l'assessore è dovuta alla dismissione del patrimonio immobiliare dell'ATAC. Dico questo perché non si parla di puri spiriti, non parlo di Retighieri, parlo dei problemi, ma si parla di problemi concreti. Ora, la vendita del patrimonio immobiliare è una signora operazione, certo. Ed è evidente che su cose di questo genere, quindi su vile denaro, poi bisogna appunto sporcarci le mani, bisogna prendere delle decisioni. Ma guarda, lo chiediamo proprio tra poco a Retighieri. Dobbiamo però fermarci 2 minuti per la pubblicità, ma rimane con noi Antonio Padellaro. E tra poco avremo appunto Marco Retighieri, direttore generale dell'ATAC, appena dimessosi, uno dei dirigenti che ha lasciato. E non ancora sostituito, perché hanno nominato l'amministratore unico Manuel Fantasia, ma il direttore generale, che è quello operativo, non ancora. Non ancora, tra poco. A Roma noi abbiamo avuto la prima vera grande prova della capacità di governo di questo grande circo equestre che è il Movimento 5 Stelle. Vabbè, caro Oscar, è chiaro che De Luca... Disse lui che ha i figli, esatto. Fantastico, l'Italia delle elezioni morali, del resto. Va bene, stiamo parlando di Roma, siamo con Antonio Padellaro del Fatto Quotidiano, ci ha raggiunto e lo ringraziamo di essere con noi Marco Retighieri, che fino a pochi giorni fa era il direttore generale dell'ATAC, poi si è dimesso e quindi è l'azienda dei trasporti pubblici di Roma. Retighieri, buongiorno, grazie di essere qui con noi. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, è chiaro che non è una lettura politica la sua, però ci può aiutare a capire intanto perché si è dimesso. Lei ha parlato apertamente di contrasti con l'assessore. Cioè lei ha detto, l'assessore mi ha chiesto prima una cosa sulle dismissioni immobiliari, che era come dire, siccome si fondava su quello un pezzo fondamentale del piano industriale presentato da noi, messi da tronca. Stiamo parlando della, ripetiamo ai nostri ascoltatori, la municipalizzata che ha il poco invidiabile onore da anni di essere individuata da Mediobanca come quella che perde di più in Italia, e dice immediatamente messa in discussione appena arrivato l'assessore la dismissione immobiliare su quale si fonda un pezzo fondamentale del piano industriale. Primo. Secondo, ci hanno chiesto il parere preventivo su cosa intendevamo fare delle nomine interne dei dirigenti e quindi violando la nostra autonomia. Queste due cose abbiamo capito bene? Perfetto, giusto, corretto. In più anche altre cose che abbiamo insieme all'amministratore unico, il professor Brandolese, abbiamo anche precisato durante una conferenza stampa di chiarimento che non voleva avere nessun aspetto di natura politica, ovviamente. Nessun aspetto di natura politica, però una lettura politica l'hanno fatto tutti i giornali, Retighieri, perché oltre al suo caso ovviamente ci sono poi le vicende degli assessori. Certo. Cioè, ci aiuta a capire, visto che la vista dal di dentro nei rapporti con il comune, che cosa sta succedendo nel comune di Roma. Ah beh, che cosa stia succedendo all'interno del Comune di Roma, questo penso che i giornali siano molto più bravi di me a delinearlo. Quello che succede con tutto ciò che riguarda il mondo dei trasporti, ovviamente quello l'abbiamo vissuto in prima persona, c'è molta, come potrei dire, ci sono dei tentennamenti, ovviamente dovuti anche all'inesperienza politica di molti dei partecipanti al governo della sindaca Raggi. e questo lo si può capire. Quando però vengono ad interferire direttamente con le scelte della società, questo diventa un problema, ma non solo per ATAC, per qualsiasi tipo di società al mondo sarebbe un problema. Oltretutto c'erano finanziamenti che c'erano e non c'erano, oltretutto si facevano delle affermazioni riguardo la capacità sulla metro A, per esempio, dove è stato detto che per la metà di settembre ci sarebbe stato il 95% dei convogli, cosa che non è materialmente possibile. Quindi insomma, è un insieme di considerazioni che ci ha portato insieme all'amministratore unico a rassegnare le dimissioni. Che sulla dismissione del patrimonio immobiliare dell'ATAC intervenga l'assessore, quindi intervenga la giunta, lei non la trova una cosa giusta, essendo una società? Assolutamente giusta, se non fosse altro però che su questa si basa la credibilità verso il pool di banche che ci ha dato dei finanziamenti. Se si mette in discussione questo, ci deve essere una compensazione di altra natura che vada a coprire ciò che non si può più coprire con questo patrimonio immobiliare. E questo è il punto che vi ha fatto, diciamo, litigare. Se uno mette in dubbio una trattativa con il pool di banche che è stata faticosissima, magari si poteva far di meglio o anche di peggio, questo ci può anche stare, però è il massimo che noi abbiamo ottenuto. A fronte di che cosa? A fronte di questo patrimonio immobiliare, il pool di banche ci ha fornito una linea di credito che vale 167 milioni. Quindi, venuta a mancare la parte la parte patrimoniale, le banche potrebbero chiederci indietro anticipatamente tutto quello che ci hanno prestato. Adesso sto estremizzando, però è così. Quindi si va a ledere una parte fondamentale della vita di ATAC. Senta, per far capire ai nostri ascoltatori che leggono ricostruzioni sui giornali, sì, secondo le quali voi ve ne siete andati anche perché in realtà i capi operativi dell'ATAC, come dell'AMA, Solidoro, tra l'altro nominato ancora da meno tempo che da voi, che se n'è andato anche lui, facevano affidamento in questo mese di agosto in maniera crescente sul ruolo che l'ex assessore, adesso dimesso, Minenna aveva di coordinamento delle vicende economiche, anche delle grandi partecipate, rispetto alla difficoltà, nel vostro caso, con l'assessore ai trasporti. Questa ricostruzione dei giornali, Rettighieri, secondo lei, per dire ai nostri ascoltatori, è fondata che ci fosse quindi l'evidenza di un inizio di giunta parallela, per così dire, come hanno scritto molti, oppure è una ricostruzione giornalistica nella quale lei dice: no, io nella mia esperienza di direttore generale dell'ATAC fino all'altro ieri non mi ci ritrovo? No, io personalmente non mi ci ritrovo, adesso mi sento anche di esprimere il giudizio del professor Brandolì, dell'amministratore unico. No, non è così. Certo, l'ex assessore Minenna è una personalità di spicco, era una personalità di spicco ed estremamente efficiente ed efficace. Se devo essere sincero, personalmente io non mi ci sono mai trovato perfettamente a mio agio con questa persona, pur rispettandolo e pur riconoscendo le sue indubbie capacità, forse poco diplomatico, ma forse nel suo ruolo conoscendolo un po' è proprio così. Forse nel suo ruolo doveva essere necessariamente così, però aveva una marcia in più rispetto a tutti gli altri che ho incontrato. Questo qui è fuori discussione, quindi associarmi a lui, no, assolutamente no. E le dico anche un'altra curiosità, forse. Quando con il professor Brandolese abbiamo dato le dimissioni, noi non sapevamo, perché non avevo ancora sentito il radiogiornale o il telegiornale, che tanto la dottoressa Raineri quanto che il dottor Milena si fosse dimessi. Quindi ci sta dicendo che è stata una circostanza casuale. Assolutamente, guardi. Ma assolutamente. Comunque con noi c'è anche Antonio Padellaro. Padellaro, visto che conosce Roma perfettamente, conosce ieri anche i problemi dell'ATAC, perché poi si parla delle questioni, ma poi i romani vogliono sapere, ma a questo punto le banche toglieranno le linee di credito e l'ATAC si ritroverà con meno soldi o no? E quindi con meno parco circolante oppure no? Però Padellaro. Allora dunque sì, io sono nato a Roma, vivo da una vita a Roma e posso dire che mai come in questi ultimi anni il disastro dei servizi pubblici a Roma è stato così evidente. Io non ne faccio una colpa al dottor Rettighieri, che evidentemente ha ereditato la situazione che conosciamo, quindi facciamone un discorso proprio di base, di struttura. Io prendo i mezzi pubblici, penso che molti di quelli che ci ascoltano a Roma prendono i mezzi pubblici e la situazione, lo sa dottor Rettighieri, è terribile. Cioè abbiamo auto, bus che non passano, la metropolitana che si guasta continuamente. Io ho letto anche i motivi di ciò, perché sono, molti di questi mezzi sono antiquati, il problema della manutenzione. Non parliamo anche di altri settori sui quali il dottor Tighieri non ha competenza, i rifiuti. Non è che i rifiuti, il problema dei rifiuti è un problema creato dalla giunta Raggi che è da due mesi. Aspetta Antonio, ricordiamo anche agli ascoltatori anche l'inchiesta della procura, per esempio sulle segnalazioni delle stessi ex vertici dell'ATAC, perché la percentuale di mezzi che non girano è anche così elevata perché pare frutto di sabotaggi interni di gente che era stata levata dalle gare di appalto di manutenzione, tanto per dirne esatto. Uno. Non parliamo poi della strada delle strade, per dirne allora il punto è questo: peggio di così la città non può essere governata e gestita. Quindi bisogna, prima di parlare giustamente dei problemi della giunta Raggi, dei casini, dobbiamo parlare del fatto che questi hanno ereditato, e penso che il dottor Rettighieri possa confermare, una situazione catastrofica. Questo è il punto. Il punto è però adesso che succede, cioè nel senso che si può si può sempre scavare il pavimento. Non sto difendendo nessuno, sto soltanto dicendo che parliamo pure del modo così un pochino abbastanza imbarazzante con le quali si sono state le prime mosse della giunta, ma non dimentichiamo che la situazione di Roma è quella che è stata ereditata per colpa di persone che hanno dei nomi e dei cognomi. Sì. Però Rettighieri, ai cittadini di Roma, lei che cosa dice? Beh, lei può dire, vabbè, adesso l'ATAC fa parte del mio passato, anche se breve è stata la sua esperienza, però ai cittadini di Roma che si trovano in questa situazione disastrata nei rapporti con il trasporto pubblico, che succederà adesso, da domani, secondo lei? Non distingo fra le linee ferroviarie concesse, la metropolitana e la linea di superficie. Le linee di superficie effettivamente sono disastrate, disastrate voi perché il parco è vetusto, come ha detto il dottor Padellaro prima, perché una media di 11 anni ad autobus vuol dire che ci sono alcuni autobus che girano con 800.000-900.000 chilometri. Quindi ogni volta che i motori sono sottoposti ad uno stress, ovviamente non reggono più, e bisognerebbe investire perlomeno 150-200 milioni di euro per rinnovare, anche se parzialmente, ma in modo significativo, il parco mezzi. E questa è una prima considerazione. Diversa invece la situazione per il metroferro cosiddetto, cioè metropolitane e ferrovie. Quando sono arrivato c'era una situazione veramente disastrosa sulle ferrovie e anche sulla metropolitana. Faticosamente, grazie al personale e all'ingegnere che ne è responsabile in toto, stiamo fortemente recuperando sia sulla metro che sulle ferrovie. Lei pensi alla Roma Lido, che ha vinto il premio Caronte come peggior linea ferroviaria in Italia. Adesso stiamo viaggiando con i treni regolari, salvo qualche giornata in cui, ma veramente sulle punte delle dita di una mano si contano, stiamo viaggiando con tutti i treni in efficienza, cioè con i 12 treni richiesti. Sulla Roma Viterbo siamo andati al completo e così sulla Roma Giardinetti, a Roma Centocelle. Per la metro B sta viaggiando con dei convogli addirittura di riserva, quindi con tutte le vetture circolanti. La metro A è quella che ci preoccupa di più e siamo leggermente sotto quanto richiesto, ma contiamo per il mese di ottobre, i primi di ottobre, di tornare in efficienza totale anche con quella. E quella grazie alle nostre maestranze, perché il lavoro che è stato fatto è quello di reinternalizzare tutte le lavorazioni. Va bene, insomma, con questo almeno sguardo di ottimismo, perché il racconto che abbiamo fatto per ora, Oscar, di quello che succede a Roma è una situazione politica molto instabile, è una situazione anche pratica molto poco stabile. No, naturalmente, sottolineiamo a chi ci ascolta, l'entità finanziaria data a Cedretti ieri per il mero rinnovo e adeguamento del parco circolante linee di superficie è tale che però l'azienda non ce l'ha. E bisogna vedere se il comune da dove lo tirerà fuori, perché altrimenti resta come una piaga aperta. Noi nel ringraziare Antonio Padellaro e Marco Rettighieri diamo Patrizia da Livorno, se ce la fai in un minuto, Patrizia, tanto noi continuiamo fino alle 9.30 anche per gli altri ascoltatori. Patrizia. Sì, buongiorno, volevo salutare tutti. Ecco, telefono come testimonianza qui da Livorno, perché come sapete anche qui governano il Movimento 5 Stelle dopo 70 anni di PC, PD e via. Io dico che me l'aspettavo la situazione di Roma e non sono nessuno, cioè non sono un politico nulla, perché i soliti problemi li abbiamo avuti a Livorno, pari pari. Ci sono stati problemi con gli assessori, sembrava, avete parlato anche voi, avete avuto Nogarin lì da voi, perché per il problema dell'immondizia, per il problema di un debito di 42 milioni. Lei se l'aspettava perché? Perché li vede inesperti, li vede... Ma senta, ora io secondo me stanno andando molto bene, ecco, non vuole dire bene, gli esperti sì, ma non ladri, ecco, io credo che dopo, io sono un ex votante PD, quindi mi do anche la colpa di aver votato tutti questi anni a Livorno il PD. Però non ha cambiato idea dopo le loro prime difficoltà, cioè in sintesi dice, date loro tempo perché poi... Sì, che poi in sintesi dice quello che dicevamo, cioè almeno non sono ladri, ma sono... certamente inesperti, siamo in assoluta minoranza rispetto a tra i nostri colleghi che inneggiano e stappano bottiglia per quello che avviene a Roma. Ma comunque, dopo il giornale radio continuiamo, state con il segnale orario, vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità, pensa Unica. Mattino. Eccoci, sono le 9 e 6 minuti, caro Oscar. Bentornati. In diretta fino alle 9 e 28. Santa Teresa di Calcutta, che... Hai visto il Papa cosa ha detto ieri? Mise i potenti di fronte alle loro responsabilità. Sulla povertà. No, criminali, ha detto testualmente così. C'è delle parole veramente incredibili. Veramente dure. Allora, ci sono. Poi c'è qualcosa che ti ha colpito, tra poco ne parliamo. C'è però gli ascoltatori che sono lì da un po'. Alberto è lì da Perugia che ci ascolta. Grazie per la pazienza, Alberto, eccoci qua. Buongiorno. Buongiorno, Alberto. Senta, la mia domanda ha quasi risposto Padellaro. La giunta Raggi ha trovato Roma non a pezzi, non esisteva più. Mafia capitale, l'Atac è un disastro, tutti che rubano, rom, case abusive, affitti, cosa andate cercando? Cosa vuol qui dire? Ci vuole la bacchetta magica. Io parlo da romano, sto a Perugia ma sono ex romano, la conosco bene Roma. Ho capito, e quindi non si può fare nessuna critica sulla scelta di persone che hanno scelto loro, non le ha scelte lei, Alberto, non le ha scelte Oscar, non le ha scelte, le hanno scelte loro e dopo due mesi se ne sono andate. Andate che cosa? Si sono dimesse, l'assessore scelto che si è dimesso. Ma te credo, stanno tutti ammanicati, sono tutti ammanicati. Ma chi li ha scelti, scusi? Almeno si può dire che hanno scelto delle persone che non erano confacenti al loro modello di giunta? sono andati a scavare, bisogna scavare piano piano, bisogna scavare. E poi vengono fuori le marachelle. Vabbè. Okay. Lei troppe ferie, gli hanno fatto male. A me. No, Alberto, ma va ci bene, consente Alberto. Di dire, guardi, scusi, rifletta su questo. Se guarda il più dell'informazione italiana, noi abbiamo già un criterio diverso, nel senso che diamo atto che hanno ereditato il disastro. Secondo, noi ci chiediamo com'è che loro per primi, non solo il sindaco ma tutto il direttorio eccetera eccetera, le prime file dei 5 Stelle non si rendano conto che è inevitabile che a questo punto tutti abbiano i fucili spianati, e a maggior ragione quindi bisogna fare delle scelte e avere dei risultati che tacciano tutti i fucili spianati comunque a prescindere, perché questo è Roma rispetto alla grande sfida nazionale. Comunque Alberto, la ringraziamo, farò ferie più lunghe la prossima volta, più corte volevo dirvi. Mariella ci chiama da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno e bentornati a tutti e due, mi siete mancati. Il mio è un intervento tra il rassegnato e la nota di colore, la nota di colore, prendiamola con leggerezza. Io nei giorni di Ferragosto ero qui a Roma perché dovevo lavorare e ogni giorno mi faccio la mia passeggiata da Trastevere al Gianicolo, no? Nei giorni di Ferragosto, 13, 14 e 15, un signore ha piantato la sua tenda canadese nel giardino a fianco all'ambasciata di Finlandia presso la Santa Sede. Tra l'indifferenza generale, a 10 metri, se conoscete Roma, c'è cioè la passeggiata del Gianicolo, sì, dove passano, sì, oltre ai turisti, l'avranno vista i turisti questa cosa, cioè, sfrecciano le volanti della polizia, dei carabinieri, e erano nessuno i giorni ha fatto nei niente. Quali ci si diceva che Roma era blindata, che ti controllavano gli zaini. A lei ne fa una questione qua, di sicurezza, direi, ma tranquillamente chi? Alla faccia di tutti noi, così, in una location invidiabile. Io vi ho anche mandato una foto, non so se l'avete vista. No, la tenda canadese, hanno conquistato l'ambasciata finlandese presso la Santa Sede. Però è singolare, sa perché, veramente in quel luogo che conosco bene, io ho vissuto anni e anni, c'ho ancora una casetta, mia moglie a Roma, non mia. Ma detto questo, in quel luogo è singolare proprio per la prossimità con l'area extraterritoriale delle ambasciate. Chissà se era davvero un villeggiante quel tipo con la tenda, mi scusi se mi permetto di dirglielo, chi lo sa, perché forse era qualcun altro. Va bene, la ringraziamo Mariella da Roma. C'è anche Paolo da Verona, buongiorno Paolo. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Niente, io volevo dire solo questo, che al netto di quello che la giunta Raggi può aver sbagliato per un eccesso, o un eccesso di zelo, per una certa superficialità, oppure per delle cose che effettivamente dopo sono avvenute, ho notato che sui giornali non si parla nulla di Sala, e quindi ci sono, secondo me, ci sono stati due pesi e due misure, ma non per giustificare, ma perlomeno per renderci conto di come è l'informazione anche in Italia. Vabbè, ma adesso perché anche Sala, lo diciamo prima, ha avuto un capo di gabinetto che è durato poche ore in carica, poi per un incidente. Su questo quindi ha ragione. Lei dice, Paolo, cioè, c'è maggiore attenzione. Certo, c'è da dire che un pizzico di verità ci sarà. Poi devo dire che a Roma però ne hanno inanellata almeno nel giro di pochi giorni una dopo l'altra, insomma, dimissioni, il problemi. Il punto è che essendo la forza che addirittura temuta al punto tale che cambiano l'italicum, questo è il punto, per non che non vogliono più, certo, fare il ballottaggio dopo che hanno detto il maggioritario eccetera eccetera, sperano che la Corte Costituzionale faccia una legge proporzionale, quelli che hanno detto che si doveva sapere entro la sera stessa chi vinceva le elezioni. Quando si ha dietro questa forza, bisogna sapere che verrà il passato i raggi X. Questo è inevitabile. È così. Allora, prima di parlare del terremoto, perché vogliamo tornare alla notizia che certamente ha devastato non solo quelle zone, ma proprio tutti noi. Guarda, io ero in Malesia a fare le vacanze, caro Oscar. Tu non sai le persone, proprio ho conosciuto persone, una della Nuova Zelanda, la prima cosa che mi ha detto, terribile, con la faccia contrita, certo. Cioè la notizia veramente ha fatto il giro del mondo, altro che. E tutto il mondo. Ci ha dimostrato solidarietà, vicinanza, tutto il mondo ha dimostrato anche di capire e apprezzare fatto che poi, come sempre, i soccorsi volontari sono stati solleciti, eccetera, eccetera. In questo gli italiani sono veramente bravi, hanno accumulato anche esperienza, diamone atto, sia alle strutture pubbliche che al volontariato privato. Detto tutto questo, sarà anche una delle scelte su cui per prossimi anni, speriamo questa volta, si metta davvero in sicurezza una buona parte del patrimonio pubblico, eccetera, eccetera. È un po' il problema. È un po' il problema e vedremo, perché su questo naturalmente bisognerà presentare un progetto, diciamo, in cui dal punto di vista della legalità e dell'efficienza non sia la solita robaccia italiana. Perdonatemi, anche in questi due giorni leggere che c'è la gara di chi va a prendere la residenza da matrice per lucrare sugli indennizi, a me, ecco, dico solo amarezza. Guarda, amarezza. Qua con noi c'è il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a voi. È davvero così? Cioè ci sono persone che stanno facendo questo? Cioè? No, ma non ho capito bene. Che stanno cercando di ottenere la residenza in qualche modo da Amatrice per lucrare. No. C'è qualcuno, pochi, però c'era subito una mia informativa lì all'ufficio anagrafe, che hanno trasmesso immediatamente a chi deve controllare, diciamo, i nominativi delle persone, e avvertivano che succedeva questo. Diciamo, qualcuno ci ha provato o ci sta provando? Ma no, se ci provano sono al corrente dei rischi che corrono, no? Perché chiunque veniva, io avevo fatto subito una circolare, perché prevenire è meglio che curare, dove davo proprio informazione all'ufficio anagrafe di trasmettere immediatamente le richieste alle forze dell'ordine. E quindi, insomma, questo per stroncare giustamente questo tentativo. Come va la situazione, sindaco, anche per la questione proprio delle scosse? Cioè ci dica qualcosa, perché... No, ma lo sciame sismico ancora c'è. Noi abbiamo avuto l'emergenza nell'emergenza, perché sono crollate, diciamo, le strade di accesso, per cui questo è un territorio immenso, perché sono 174 km quadrati di territorio, 69 frazioni, per cui la mia preoccupazione è stata quella sia di pensare all'emergenza, diciamo, emotiva delle persone, ma anche l'emergenza della viabilità, perché questo ha creato tanti e tanti problemi. È chiaro che abbiamo avuto la macchina della protezione civile, dei volontari, che ha funzionato bene, bene, bene. Per cui di questo a dimostrazione che questo è un grande paese nella fase dell'emergenza. Adesso la sfida dovrà essere, secondo me, lo dico da tanto tempo, quella della programmazione, della capacità di mettere delle risorse affinché si dia la possibilità diciamo di ricostruire in maniera sicura tutto quello che non c'è più, per cui sia sul pubblico sia sul privato c'è la necessità che si faccia un investimento serio. No, su questo non c'è dubbio. È mirato, anche perché noi l'ultimo terremoto, diciamo, devastante ce l'abbiamo avuto nel 1620, è una zona sismica, però io mi sono immediatamente reso conto che il paese non c'era più, quando, uscendo da casa di corsa per stare accanto alla mia gente, ho visto che Porta Carbonara, una porta del Medioevo, era scesa giù come lo yogurt, no? Sì. Allora, però lì è stato il segnale, diciamo, del disastro. Certo. Sindaco, aspetti un attimo però, perché abbiamo ancora due o tre domande da farle, Oscar. Sindaco, io volevo fare una domanda su uno dei punti su cui sono cominciate le polemiche pochi giorni dopo il sisma e la tragica conta delle vittime, quando ancora era arrivato il numero dei dispersi. Io sono stato tra i primi a scrivere che, norme alla mano, gli interventi su cui sono scatenate le polemiche nel vostro comune di fronte al fatto che la scuola era crollata, scuola su cui c'era stato l'intervento nel 2012, sono stato i primi parzialmente, però il primo a tirare fuori le norme, dicendo: guardate, norme alla mano, quei soldi si potevano spendere dopo l'Aquila per la legge regionale, la provincia, il comune e così via, comunque con lavori di pura miglioria. Cioè non hanno violato le norme, se era pura miglioria, perché è scoppiata la polemica dicendo: hanno utilizzato i soldi non per la messa in sicurezza antisismica. Tant'è che io ho scritto: è una follia, ma le norme italiane sono così. Lei ha sempre risposto alle polemiche dicendo: guardate, io ci mandavo i miei figli, quindi non è che potete pensare che sono un matto che ho utilizzato i soldi per fare altro. La lezione per il futuro adesso è: vedremo quanti soldi ci saranno, come si farà, eccetera, eccetera, ma possiamo stare sicuri che questa volta i soldi sono per la messa in sicurezza antisismica seria e non per gli impianti di riscaldamento e così via, tutte cose utili e che però con la messa in sicurezza sismica non c'entrano? Guardi, io le do, diciamo, una risposta il più sintetico possibile, perché voi sapete che ho chiesto immediatamente l'incidente probatorio, no? Sì. Anzi, mi auguro che si faccia subito, perché c'è il rischio che ci sia, diciamo, una modifica dello stato dei luoghi. Allora, io le dico una cosa, cioè messa in sicurezza è anche fare le porte antipanico per l'uscita di sicurezza, è quello di mettere a norma i bagni, è un mondo. Ora il discorso qual è? Ora il discorso è, come le dicevo prima, è che io mi auguro che vengano messi dei fondi specifici, ben mirati, con le risorse giuste, perché poi dopo possiamo stare a parlare di tutto, ma poi dipende sempre da quello che c'è a disposizione. Io, se le dico la verità, ho massima fiducia in quello che sta facendo il magistrato, sono estremamente sereno, io non penso più al passato, ma penso al futuro, all'oggi, al domani. E con Errani i primi rapporti come sono, col commissario Errani? No, ma è una persona che viene dal mondo dell'amministrazione, è diciamo un amministratore, per cui sa quello che significa fare il sindaco, sa quello che significa essere un sindaco di un paese che non c'è più, anche se in Emilia Romagna, diciamo, la dinamica e la casistica è stata totalmente diversa rispetto, sì, alla nostra, però mi sembra che l'approccio sia quello giusto. Poi dopo la partita, secondo me, si giocherà, diciamo, sui tempi di ricostruzione, sulle risorse che verranno messe a disposizione. Ma anche lei dice, per esempio, che sono troppi 7 mesi per le case, vorrebbe in minor tempo. Guardi, io le posso dire una cosa, io ho cercato di dare un mio contributo nella riunione di sabato, dicendo che invece di fare la gara d'appalto per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, per cui con dei tempi legati a quelle che sono le gare anche di procedura di urgenza, io ho proposto che queste opere le faccia il genio civile, cioè il genio dell'esercito, e questa è stata, diciamo, una proposta che ho fatta, che è stata accolta, e capite che questa proposta, cioè, di fatto andrà ad abbreviare i tempi per la consegna delle case della matrice a tempo. Io posso fare questo, ma dopo è chiaro che si dà sempre un tempo massimo. Sì. Io mi auguro che poi ci sia una grossa festa dove si dica: noi avevamo detto 7 mesi, invece siamo stati bravi a farlo 5, ma questo non dipende da me. Io ho dato questo contributo, che sì, cioè non è, diciamo, da sottovalutare, no? No, ma è la sua proposta. Perché? Sindaco, però posso farle una critica? Io, osservando tutte le reazioni nell'estrema difficoltà, nell'estremo dolore in cui lei ha operato, per esempio alcune sue uscite, sulle quali molti hanno anche fatto qualche critica, per esempio, siccome il primo committente dei lavori in un comune è il sindaco, no? È il comune stesso. Quando le hanno fatto presente: ma lei con le indagini in corso sicuramente non rischia nulla, e lei ha detto: ma va, io mi dovrebbero dare l'Oscar e, no, ma guardi, io e mi farò soldi con le querele, no, che farò. Vabbè, allora, questo è stato un modo di dire, aspettate, perché poi a volte le cose che si dicono a caldo possono essere interpretate male. È stata una battuta, no. Diciamo. Io faccio il sindaco, l'Oscar lo danno agli attori, no? Sì. Era un modo di dire che stavo sereno. Sul fatto delle querele, io ho detto, poi chi ha sbagliato nei confronti dell'uomo e del politico e non del tecnico correrà al rischio che il sindaco faccia valere le proprie ragioni, ma non per arrischirsi lui, perché io do, penso, direttamente ai servizi sociali, che sono una persona seria. No, io mi scuso per la battuta a caldo, è chiaro che il sindaco non deve avere l'Oscar, il sindaco deve avere la riconoscenza dalla propria popolazione, perché al sindaco non serve, diciamo, la ribalta di Hollywood, no? Era un modo di dire, scusa, che si sente sicuro dal punto di vista anche dell'inchiesta, ecco, diciamo così. Guarda, colgo, diciamo, l'occasione della vostra telefonata per invitare, diciamo, i giovani industriali nell'incontro annuale che fanno, invece di farlo a Capri. Io li invito, diciamo, ufficialmente alla Matrice, no? Sarebbe una cosa eccezionale, sarebbe un momento di condivisione, di stare vicino a una comunità che oggi ha perso tutto. No, immaginate. Gli diamo una proposta, no? A Marco Gai, presidente regionale industriale. La proposta ufficiale è fatta e noi la ringraziamo, staremo a vedere. La ringraziamo intanto, sindaco Sergio Pirozzi, ma tra l'altro su questo, sindaco di Amatrice ovviamente, sì, di Amatrice. Su questa cosa del terremoto, sai che Oscar, ci sono state anche polemiche. Ma le polemiche sono più che giustificate, il vescovo l'ha detto, gli ha uccisi l'uomo, non è che... Vorrei dire, quando ci sono normative che consentono di utilizzare... Non solo dopo il Belice, l'Irpinia, il Friuli, ancora l'Aquila, di utilizzare i fondi per la messa in sicurezza per altri lavori. No, io non posso essere d'accordo con il sindaco. I fondi per la messa in sicurezza vanno utilizzati per la messa in sicurezza che è specifica per ogni tipo di edificio, la sua età e materiali costruttivi. Non vanno bene per fare le caldaie e le porte antincendio. È un'altra cosa. La coperta è corta, ma bisogna concentrarsi sulle cose più sicure. Però, ripeto, sono le norme folli italiane che lo hanno consentito. A questo poi si aggiungono i lavori fatti magari. Non si capisce come da imprese calabrese guidati da gente che ha rapporti con chi ha l'interdittiva antimafia. Ma tra l'altro, poi l'Italia va bene tutti a urlare contro Charlie Hebdo e poi però tutti a leggere pagine intere sulle procure che indagano, quindi c'è qualche cosa anche che non torna, no? Tra l'altro Oscar, purtroppo abbiamo solo 2 minuti e mezzo, ma abbiamo chiamato, alla luce di queste polemiche, Lino Ricchiuti, che è il presidente del Movimento del Popolo Partite IVA. Buongiorno Ricchiuti. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Lei una polemica bella forte l'ha lanciata, il classico sasso nello stagno. A dire cosa? Non bisogna dare neanche un euro di beneficenza, di solidarietà. Perché una posizione così dura e netta? Perché purtroppo se non prendi delle posizioni nette e dure, chi devi ascoltare non ascolta. È chiaro che la solidarietà è un valore, un fatto importante, ma quello che noi abbiamo richiamato dalla nostra pagina è che lo Stato deve fare lo Stato. Il problema è che noi, come piccole imprese, come piccoli imprenditori, come micro imprenditori, abbiamo una tale sfiducia in questo Stato, perché sono 5-6 anni che siamo stati completamente abbandonati. E purtroppo molte volte la nostra solidarietà, la solidarietà delle piccole imprese, ha supplito in tantissime situazioni, in tantissimi casi, l'assenza dello Stato. E quindi la nostra provocazione, ma che è solo una provocazione, perché chi conosce, chi ci segue sa che noi sin da primi giorni abbiamo lanciato l'iniziativa di adottare un panificio da matrice che costa molto di più dell'SMS i 2 euro. Ma il problema qual è stato? Il motivo per cui abbiamo lanciato questa provocazione? Perché dopo appena un paio di giorni che la gente giustamente si mobilitava, come ci siamo mobilitati anche noi, arriva il comunicato: non mandate più viveri, non mandate più materiale, mandate soldi. Prima cosa. Seconda cosa, sempre nei giorni precedenti c'è un articolo a mia firma sul nostro sito www.popolopartitiva.com dove invitiamo, peccato c'era prima, ci potevo anche parlare, il sindaco di Amatrice di aprire un conto corrente postale anziché bancario per donare direttamente al comune di Amatrice, perché se invii un bonifico ai grandi gruppi, quelli che vengono detti in televisione, allora le commissioni sono pari a zero. Se invece non ti fidi, vuoi mandarlo direttamente ai comuni interessati, può essere a Matrice, a Cubre, eccetera, devi fare un bonifico. Se lo fai in contanti, perché non tutti hanno il conto corrente postale, devi pagare commissioni di 8-9 euro. Uno scandalo assurdo. Insomma, si fermi qui, Ricchiuti. Insomma, per questi motivi, immagino anche altri, avete fatto questa, che lei stessa però definisce una sorta di provocazione. Oscar, non lo so, ci fermiamo qui, certo questo terremoto. Comunque avremo mesi per capire adesso il governo Renzi quello che promette questa grande casa Italia, se in termini di legalità, efficienza, risorse e bollino europeo supererà gli esami, che speriamo siano la lezione imparata dopo troppe vittime e devastazioni, troppe volte abbiamo buttato soldi. Il timore è che non sempre è così in Italia, che le polemiche ciclicamente si ripropongono. Al prossimo terremoto, cordoglio, polemiche. E poi nulla di fatto fino a quello successivo. Speriamo di no. Ci fermiamo qui per oggi, ma siamo ripartiti. Siamo ripartiti. Io ve lo dico, adesso lui si sta studiando il mandarino per il cinese. Sta studiando il mandarino. Vado a spucciarmi un mandarino. Ciao, a domani.